e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento e sono in compagnia di... Alessio di Loreto. Pier Francesco, di dove siete ragazzi? Io sono abruzzese di origine, però vivo da già un po' di tempo a Modena. Ok. Io abito a Formigine, a Modena. Siete sposi, amici? Io sono sposo e io lui è il mio testimone. Ok, sei sicuro di volerti sposare? Dai, diciamo di sì, dai. Come si chiama la sposa? Avvicinati così lo senti bene. Elisabetta. Elisabetta, come ti sei conosciuto con Elisabetta? È stata una storia un po' particolare, nel senso che non è stato, diciamo, il classico colpo di fulmine, no? Mm-hmm. Quindi, diciamo, il rapporto è stato un po' inizialmente... un po' particolare, nel senso che lei inizialmente mi evitava, poi pian piano ci siamo allontanati, diciamo, sì. Attendere, desiderare, esatto. È stata quella cosa che pian piano poi crescendo ti ha catturato ancora di più l'attenzione. Esatto. Vedi, quando uno non dà confidenza oppure faccio finta di non vederti, ti cattura di più l'attenzione. Esatto. Funziona. Cosa dici? Facciamo qualche domanda carina, un po' più bizzarra al nostro... Vai. Sposo. Sì. Sei pronto? Vai, prova. Provo? Prova. Allora, innanzitutto facciamo una domanda base. Da quanto tempo sei fidanzato? 13 anni. Mamma mia, 13 anni. No. E ancora non ti sposavi? Esatto. A chi stavi aspettando più o meno? Stavo aspettando che un po' si devono allineare tutte Mamma mia, hai tutte ragione. Le parole di bocca. Tutte stelle. Hai ragione. Allora, facciamo un'altra domanda, un po' più piccante, vediamo. Più o meno, una posizione preferita, ci sta? Posizione, sì, dai. Sì. Dai, proviamoci. Non sono esperto nelle posizioni in realtà, sono un po' profano dal punto di vista, diciamo, come si può dire? Beh, che siamo... La conoscenza, ecco. Ok. Cioè, c'è una posizione in cui magari le sopra e sono sotto. Ok, perfetto. Vuoi dire anche tu la tua? Dai, di la tua. Dai, il tuo sposo è curioso anche di sapere la tua. Ho cuore aperto, quindi è giusto. Ma guarda, io sono un po' più animalesco, cioè... Vabbè, ognuno ha i propri gusti. Cioè, secondo me, viva la pecora. Mi piace la tua sincerità. L'ha detto sincero. Cioè, apprezzo la sincerità. Ed è giusto. Cioè, quello che da dire è da dire. Cioè, Simone, vuoi fare, diciamo, una dedica allo sposo? Allora. Dai, proviamoci. Diciamo che lui è entrato nella mia vita mentre stavamo lavorando e si è presentato una mattina a lavoro spaesato, perché lui veniva praticamente da un trasferimento da Lanciano a Modena per lavorare. La precisione, Lanciano in provincia di Chieti. Bravissimo. esatto. Cosa vi occupate, ragazzi? Io faccio programmazione di robot. Ok, anche tu? Anch'io ho iniziato con quel percorso, mi sono portato su, diciamo, tipo di approccio diverso, però siamo sulla stessa linea d'onda, diciamo, quindi comunque l'ambiente è automazione industriale, dai. Bello, interessante secondo me. Curioso. Sì, esatto. Sì, perché non è una cosa, diciamo, che fanno tutti, capito? Quando senti le cose così particolari che non hai mai sentito, incuriosisce. Sì, è interessante. Bevi del latte? No. Non bevi latte? No. Se avessi bevuto del latte sicuramente l'aveva palettizzato una mia macchina, sicuro, esatto. Sicuro. No, non è l'unica cosa, è una delle cose che non mi piace. Non facevo macchette, però conosci Tetrapack? No. Vabbè, tipo anche succhi di frutta. Ok. Sì. Allora, sicuramente una mia macchina l'avrà palettizzato. Esatto, probabilmente qualsiasi succo di frutta che tu avrai bevuto o berrai nel futuro, la macchina che ha creato quel succo di frutta l'avete, esatto, creata voi. Una parte di tutto il processo, sì. C'era la vostro zampino. Corretto. Interessante, ragazzi. Va bene, io vi lascio proseguire la serata e alla prossima, va bene? Facciamo tanti auguri allo sposo, va bene? Grazie mille. Io faccio un complimento al testimone perché... Va bene. Potevo scegliere un migliore. Meno male. Hai fatto un'ottima scelta. Assolutamente. Non c'è nulla da dire, va bene. Grazie mille. Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao.